No, dico, poi ci paghi. Ah sì, certo, naturalmente. Certo. Eh sì, anche sì. Perché se non venivate voi eravamo di nuovo paccati no, come al solito. No, infatti salutiamo i nostri amici Giuseppe De Mattia e Flavio Favelli che dovevano essere qui stasera, okay. E invece ci hanno paccato come ciao, al solito. Ciao Giuseppe, ciao Flavio. Esatto, come al solito ci hanno paccato. Ma non fa alla niente, prossima, perché poi no? Abbiamo anche Nacho stasera Nacho, qui. Sì, stasera ci abbiamo Nacho. Nacho, come stai? Tutto ok? Sì, vi saluta dalle mie stories, esatto. Come sempre. E fra l'altro, siccome è bellissima sta cosa, perché quello che volevo fare era mettere un pezzo, così mi organizzo con i pezzi che non ho messo, certo, nella chiavetta, se non fosse che nella, che nella chiavetta non c'ho nessun pezzo, per cui bene. Adesso aspetta, quindi che noi faremo quindi canta, esatto. Vai. No, non è vero, no. In realtà ho trovato, guarda, ho trovato, vedi? Ah, fra l'altro alla fine poi io non l'ho vista, no, stasera parliamo, aspetta, di Sanremo, oh, scusate, non distraiamoci. Hai iniziato 5 frasi, però esatto, questa di Sanremo è quella che mi interessa di più. Esatto. Allora, no, io sto ancora pensando a cosa ti sei dimenticato, è la prima frase che hai iniziato che non hai finito, però ah, allora mi sono dimenticato le canzoni che dovevo mettere oggi in... E questa ce la siamo fatta. Esatto. Oh. Dopodiché, San cos'altro Remo mi sono dimenticato? Che non l'hai guardata Sanremo, hai detto. Stavo dicendo a Angela, con cui mi messaggiavo durante Sanremo, che io non ho visto John Tiele. Tu l'hai vista? No. Ah, ma vedi? Perché era una... Era una cover. Era una cover nei duetti, no. Esatto. No, io sono andata... Una delle più belle poi. Io sono andata in Mare Scotti a vedere... Tu l'hai vista, Enjoy? Sì. Ah, vedi? Sì, sì. No, non c'è davvero vergognarsi di aver visto Sanremo, almeno non stasera. Ho seguito questa vicenda e ero curiosa di sapere dove fosse stata. Allora, hanno fatto a Palazzo Marescotti il commento, i prof del dance, il commento, sì, della puntata delle cover. Io però ne sono andata a un certo punto perché dovevo andare a cantare, quindi mi sono persa un po' di roba, okay. Nel senso che ho visto fino a non mi ricordo neanche più. Sicuramente ho tipo beccato la bellissima esibizione di chi erano Tony Pitoni e Dito nella Piaga, direi, sì, e l'esibizione invece di Gaia e Alessia Merz. Non è vero, no, era Levante, identica Alessia Merz, che però è una citazione troppo antica per voi, lo so. Voi siete del 2010? No, sì, di che anno siete? 2021. Quasi. 2021. Siamo andate 4 anni però, fa. Però, 2001. No, 2001. Ok, vedi. No, perché Alessia Merz era una ragazza di Noella Rai. Niente, però somiglia tantissimo. Oh, okay. Vabbè, riferimento così estetico. Quindi ho visto loro, ho visto... Scusa, le... Tu quanti anni avevi quando c'era Noella Rai? Noella Rai? Cioè, non esiste che tu hai visto Noella, sì, Rai. Sì, certo, avevo 10 anni. Carissimo. Ma cos'era, fine anni 80 non è la Rai? Infatti. No, dai, fine anni 80, no, 92, no, 93, 90, anni 90, no, no, ah, metà anni 90, anni 90, 92, 93, 94, direi. E niente, okay, quindi a parte sta cosa, mm-hmm, ho visto anche le bambole di Pezza con, che poi erano tipo le terze, con Cristina D'Avena, che in quel momento io sono andata in bagno e mi sono persa all'esibizione che mi interessava di più. Sono tornata ballando davanti a tutti quanti i prof e a tutte le persone che c'erano lì, così, a dare sempre subito spettacolo. Arte contemporanea. Sogno della notte del 15 gennaio 2026. Urlo ai folli potenti del mondo. Donald! Benjamin! Vladimir! Mi sveglio. Una voce metallica urla a me. Leave immediately. You have violated the protected area. e un'altra voce incalza. Perché agli artisti non è dato il potere di contrastare e controllare la follia del mondo? Interroghiamo solo lui. Perché sì, interrogheremo lui. In effetti. Vogliamo sapere se sei stato attento. A quello che dicevate voi? No. Ah, no, a questo. Non eri attento. A questo che ho trasmesso, che non capiamo, no. Che non sappiamo che cos'è. No. Infatti, che cos'è? Raccontacelo, illustracelo. No, è il nesso, è che non devo dire che cos'è. Ok. E ti giuro non ho più bisogno di fingere questa mia vita, il mio viaggio ed è tra ciò da sola le scelte che faccio, ma se ci sei tu ho più coraggio. E ricordo quando eri bambino e stavamo ore abbracciati per farci sentire un po' meno soli. Forse sarà l'insicurezza, sarà che per noi la famiglia non è mai la stessa, sarà che siamo figli dell'indifferenza, cresciuti da una donna più pura della bellezza. E se potessi dirti che qui la paura non è età, tu fissa la forza dentro gli occhi, sparo al centro qui la notte, non ci fotte. Bang, bang, wow. E ti giuro se il tempo è una linea che cambia, sarò la tua eco e poi mai la distanza che corre tra il mondo e le cose, ma se ci sei tu sì, resto calma. Forse sarà l'insicurezza, cambia la pelle, equilibrio instabile. Fidati, è meglio sbagliare che restare immobile. E se potessi dirti che qui la paura non è età. Welcome back. Capito. Welcome back. Bene. Finisce anche, c'è anche il jingle, perché questo è preso da YouTube, allora. Ah, ok. Alla fine fanno. Tra l'altro, a proposito di YouTube, volevo parlare di Sanremo stasera. No, dicevo, questa era John Tiele, che ecco. È quella che non abbiamo visto io e Angela, ma che Joe ha visto. E hai detto che persa. Ma con chi faceva il duetto, te lo ricordi? Night? Non mi ricordo, okay. Però che cosa era la cover. Ok. Sì, ok. Mentre andiamo a vedere qual sia la cover, mi diceva Angela, io non l'ho visto quest'anno molto molto bene, ma gli anni scorsi sì, proprio sì, dal 2022. Sì. Classificona, quello più bello dal 2022 ad oggi. Devo andare a ripescarmi. Io non ho una buona memoria, devo andarmi a ripescare un po' i vincitori. Beh, però l'anno dicevamo... scorso è stato bello. Sì, no, l'anno scorso è stato bello. Sì. Ma io devo dire che dopo il Covid, secondo me, c'è stato un livello di trash pazzesco. Ah, per cui momento più trash, roba che vi ricordate? Il più trash No, non lo so, cioè tipo no, trash J-Ax, quella roba tra J-Ax e... Ma quest'anno? No, è Fede. Ah, è Fede. È vero. Hanno sì, litigato sì, sì. In live. Cosa hanno litigato? Ah, live. No, no, no, no erano. No. Non, era Morgan. Morgan. Morgan. Morgan. Morgan. Morgan. Morgan. Morgan. È vero. Non l'ho guardato. Quello è stato. Quello è stato bello. Quello è stato pazzesco. Quello è stato veramente pazzesco. Però sì, ci sono state delle cose trash, però divertenti, tipo Topo Gigio che canta. Ma questa. No, l'anno scorso. Quindi l'anno scorso era Perry. Corsi. Madonna. Ah, è vero. Che ha fatto la cover con Topo Gigio. Che genio, quella è vero. Pazzesca, veramente. Comunque il personaggio Lucio Corsi, la quota Lucio Corsi di quest'anno non c'era, c'è cioè un qualcuno di questo tipo. Vero. No, è che quest'anno facevano quasi tutti cagare, diciamo. Cioè, cioè, dai, sicuramente è stato erano peggio Sanremo di te, dai tempi degli no, ricchi è vero, e poveri. Un po' che non era cioè, così brutto. Io vabbè, ho mancato tutti gli anni 90, per cui lì secondo me ci sono stati dei Sanremi. Io c'ero quando Anna Tatangelo cantò Doppiamente Fragili. Ecco, esatto, capito. Però, cioè, io un Sanremo così fetente non me lo ricordavo dai tempi degli anni 80. Perché quando io l'hai guardato, ma lo stavi guardando quindi. Certo. No, è che a un certo punto sono andato. No, è che non ho visto la cover di John Thiele perché era tardi. Comunque era la canzone dell'amore perduto. Ah, vedi? Sì. Okay. Era bellissima quella, è piaciuta molto. E invece, chissà cosa ci ha cantato Marco Roma oggi. Sentiamo. Marco? Chissà. Buongiorno, ho le isole nel cuore. Ho il sistema immunitario così bello, per brillare c'è un mondo così grande, c'è l'immensità che batte dentro me, è un fermento che fa così, boom boom boom boom, da Marco Roma, buongiorno. Non ci posso credere, Nacho che mi vomita in diretta. Non è vero niente. No, spero che non ti ha vomitato sulla borsa, spero. No, Zaino è salvo, però mi dispiace. No, non ti preoccupare. Joy pensava di non poter ridere, quando ha capito che l'hai detto, ha detto vabbè, mi lascio andare. Vabbè, allora visto che il mio cane, che per la prima volta è venuto in radio a Coxo Spaziale, ha detto ok. Ho fatto male, non avevi ancora fame. No, è che in effetti alle volte gli dà fastidio la macchina, però caffa, abbiamo fatto un quarto d'ora di macchina. Mi sembra che hai 10 minuti più intensi. Della serie Nacho vuole venire a Coxo Spaziale. No, vi volevo far sentire un pezzo che mi è arrivato per vie traverse, che ogni tanto succede, no? Cioè, succede che qualcuno mi manda dei pezzi e invece stavolta è arrivato per vie traverse, tipo sottobanco, mi è arrivato questo pezzo e mi hanno detto, beh, se ti piace suonalo, se non ti piace lascia stare. Senza motivazioni, autori, così. Esatto. Che buon odorino che si sente. Sì. Adesso lo metto subito sì, perché certo. C'è bisogno che prego. Qualcuno vada a tirare sul nome. Beh, innanzitutto ringraziamo Noè Bedogni che ci ha mandato I Love You. Far ridere, pensare a tutto quello che abbiamo fatto coincidere, pezzi dell'iride, luce nelle persiane, mattine sveglia intermittere, notti passate in bianco ma solo a farci sorridere. Questo è il mio limite, invidio tutti i tuoi passi e se grido devi scusarmi, da piccolo odiavo i grandi e ora che siamo distanti tu fiori e ti opporto d'armi, che sorridi se mi pensi e ciò che voglio raccontarmi. Ma tu mi dici I love you e dopo ti odi, oh, mi chiedi di far su e di fumar poco, oh, proprio non mi va giù di stare solo, oh, che se non ci sei tu io cosa sono, oh. Ricordo lei che inveiva, è una dipendenza affettiva e che per coerenza mi spezza con questa mezza invettiva. Una storia senza inventiva, è una conclusione invasiva, stare per sempre al tuo fianco ma senza averti vicina. Ricordo quando sembrava tutto più facile, girar le spalle, le canne pure le pagine. Tu vuoi la guerra ed è in guerra che esista in pace. Mi piace, non mi interessa di certo farmi del male, beh. Mi dici I love you e dopo ti odi, oh. Mi chiedi di far su e di fumar poco, oh. Proprio non mi va giù di stare solo, oh. Che se non ci sei tu io cosa sono, oh. Mi dici I love you e dopo ti odi, oh. Mi chiedi di far su e di fumar poco, oh. Proprio non mi va giù di stare solo. piacere vederti ieri, e tutte le volte che ti vedo viene sempre un po' di nostalgia. Mi dici I love you e dopo ti odi, oh, mi chiedi di far su e di fumar poco, oh, proprio non mi va giù di stare solo, oh, che se non ci sei tu io cosa sono, oh. I love you e dopo ti odi, oh, mi chiedi di far su e di fumar poco, oh, proprio non mi va giù di stare solo, oh, che se non ci sei tu io cosa sono, oh. Cosa dite di sto pezzo? Tu cosa dici di questo pezzo? Ho detto che era bello, scusa, perché non è bello? Bello, ci è piaciuto. Sì, sì. Molto, sì. Romantico. Molto romantico. Molto romantico. Si chiama I Love You. E ringraziamo Noè che ce l'ha mandato. Ce l'ha mandato, ma non è suo. Come no? È suo. È suo, quindi sì, perché sì, per via traverse? Allora non ho capito quel per via traverse. È arrivato per via traverse tramite Noè, però è arrivato per via traverse. Cioè, vabbè, non faccio altre domande. Esatto. Torniamo a Sanremo. Voleva impiegare un minuto del tempo così, a vuoto. Ah, no, vabbè, non conosco ancora il mio conduttore. Mentre invece la mia assistente Angela Tragni mi conosce molto bene. Ti segue come un'ombra. Esatto. Si vede. Sì, no, infatti quando c'è bisogno di andare in macchina o riportarmi la bici soprattutto. C'è una storia interessante. Allora. Ho capito che c'è una storia interessante, ce la racconti. No, che non sono riuscita ad aprire il catenaccio della bici. Ma questo è perché il tuo catenaccio. No, non è per colpa mia. Il mio catenaccio è tipo nacio, è inapribile. No, non paragonarlo a nacio, poveretto. È colpa tua se è un catenaccio che non funziona. Ah, vedi? Chiaro. Vabbè, ok. Cosa avete votato? Vabbè, ti ho fatto fare un po' di ginnastica. Mi ha fatto fare un po' di ginnastica. Perché è tornato indietro a prendersi la bici. Giusto? Giusto. Giustamente. No, perché stiamo allestendo una mostra. A proposito di voti, cioè, di Sanremo. Loro parliamo di Sanremo. Parliamo di Sanremo e stiamo allestendo una mostra. Oh. Qual è stato il tuo pezzo preferito di Sanremo quest'anno? Il mio pezzo preferito, Cinzia? Tra quelli che ho sentito, devo ammettere, quindi... non hai ascoltato tutto? Non ho ascoltato tutto, perché io mi addormento a un certo punto, oppure vado a cantare a un certo punto, non lo so. Vabbè, lo ammetto, J-Ax, ti è? No! Sì, ma, no. Qual era ma io sono una commercialona, ragazzi. Ma come si chiamava quello di J-Ax? Insopportabile. Italian Starter Pack. Sì, vabbè, ma io sono una commercialona, ma vi sembra una persona seria con la musica? Quando lo vedi pensi agli articolo 31 o ti è piaciuto effettivamente quel pezzo? Devo ammettere che mi diverte, mi fa ballare, ma io sono una un po' che ha bisogno di quel... E basta, quindi... vabbè, scusa, sono stata tecnica, no? Ti ho raccontato l'effetto che mi ha... Se mi ascolta J-Ax dirà che hai detto che ti piace la mia canzone. Vabbè, tu che hai questo, no, cioè voglia di giudicare gli altri, qual è stato il tuo pezzo preferito? Il mio pezzo preferito è stato... Se l'hai studiato stamattina. In realtà stavo per dire... avevo aperto Spotify... No, devo dire che a me è piaciuto molto il pezzo di Levante. Però c'è stato un altro che mi è piaciuto di più, che però non mi ricordo come si chiama. Tommaso Paradiso. Vedi quanto ti è piaciuto. No. Angelica Bove, Mattone. Sì, ma ok, bello, però quello è il Sanremo Giovani. È Sanremo Giovani. E fra l'altro lei era in finale e ha perso la finale. Ha vinto il... Ha vinto due premi. Dobbiamo parlare di Sanremo, io sono quella che fa le domande. Ammetto di non aver capito un piffero di questa divisione tra giovani e big. Perché io ho sentito parlare solo dei big, dei giovani a un certo punto. I giovani, però non li ho visti. Dove erano, quando erano? Allora lo fanno prima di Sanremo, però le prime due serate di Sanremo... dalle 8:40 tipo fino alle 9:05 forse... ci sono delle esibizioni per poi, diciamo, tipo semifinale finale. Quindi non erano, cioè nel senso non erano comprese in queste serate dal, cos'era, 24 forse? Dal 23. 23 è partito. E quindi è iniziato prima del 23, il 23 e il 24 hanno fatto dalle 20:40 qualcosa. Si sono esibiti, mi sa erano in 4 e poi hanno fatto la finale, la seconda serata. Sono sempre 30 concorrenti? No. No, sai che non ho idea, non lo so. Vedrò una roba. Seguito, io ho visto solo giovane. Angelica. Sì, ho visto solo lei. Angelica Bove che si è sfidata con non so chi. Uh-huh. E la sera prima, che era la prima sera di Sanremo effettiva, okay, invece erano in quattro. Hanno fatto due duetti e dai due duetti sono usciti i due. Ok, no, perché un tempo facevano due, praticamente tipo due festival paralleli. Sì, big e giovani, e quindi tu te li vedevi tutti insieme, non mi ricordo se mischiati o cosa. Sì, in effetti. Io non l'ho mai no, visto. Ci sono stati degli anni dove Sanremo durava tipo 7 ore. Sì, sì. E facevano prima tutti big e poi tutti giovani, e tipo finiva alle 4 del mattino. E, era spaventoso. E poi facevano un sacco di chiacchiere tra un'esibizione e l'altra, cioè lo spettacolo era. E quindi niente, quindi stavi a rimpallarti tra un'esibizione e l'altra, e non mi ricordo però quali erano i presentatori. Di più, ma c'è stato l'anno Eva Erzigova, Letizia Casta, voi direte ma chi so, giusto? Lui comunque è riuscito a non rispondere alla domanda. No, infatti quella che ho fatto comunque, io quella... la mia preferita è stata la canzone di Levante. Ok, vabbè, lì mi piace la sua voce. Vabbè, Levante. Levante, Levante, mi piace anche il testo. Ovviamente io dicevo uguale ad Alessia Merz, ma era proprio una pura, diciamo, osservazione, la trovo strameraviglia Levante. Stavo tentando di metterla simpatica. Da quella di Fulminacci era simpatica. Sì, dai. Classic Fulminacci, però no. Sì, sì, lui è sempre lui. Sì, sì. Però stavo tentando di metterla da YouTube, ma mi fa sentire due pezzi in contemporanea. Ah, sì, non certo. Ho capito come. Ah, perché ci sono. Ah, ecco perché. Avevo il player in player. Questo è da successo. Però ce l'abbiamo. Cose da boomer. Sentila. E lei, eh? Diversi con i miei occhi, lacrime resti tutto il mio stupore. Se potessi vestire la mia pelle, vibrare del mio suono, sapresti perché. Pensiero fino a dove sono valente, il timore di niente, per mostrarsi anche nelle miserie, poi restare a contare le macerie. Ah, se potessi tanto il tempo scorre, perché fra un po' ci sono le pubblicità delle 20:30, ma volevo fare gli auguri di buona guarigione a Ricky, che doveva essere qui con noi stasera, e invece ha chiesto di vedere Coxo Spaziale dal vivo e noi lo stavamo accontentando, invece verrà la prossima volta. Amore sei tu. Wow. Verrà la prossima volta, ma sì. Speriamo. Vabbè, quando ti ripigli. Ricky, ti aspettiamo. Occhio a non dirlo due volte. Che... No? Hanno suonato il citofono. Esatto. E niente, sono le 29, direi, aspetta che cerchiamo di non fare il boomer di nuovo. Come se prima. Apro un discorso mi tagli per gli spot, vero? Se apri un discorso ti taglio per gli spot. Va bene, però noi possiamo creare un bel cliffhanger. Avete visto la battuta, cioè la frase di Della Pausini che ha fatto la faccia sorpresa come se non l'avesse preparata? No. Qual era la frase? Prima ce l'avevo e adesso me l'avete messo in mano. What? Ah, così? Sì, eh. Vabbè. Siamo in coro di periferia e questo è Coxo Spaziale. Coxo Spaziale. La regia. poi siamo tornati. La regia, quando è una regia, stacca le inquadrature quando deve, anche se c'è un bacio in arrivo. Cioè, ve lo aspettavate, Toto bacio Levante Gaia. Ah, grande. Ce lo stavamo aspettando. Io sì? Sì, io anche. Sì, e sì, sì, hai visto? Sì, era i registi dovevano un po' alla Britney Spears e Madonna, sì, quella cosa, sì. Ah, però c'è, ci stava tutto, era così bello. Io stavo tentando di intervistare Nacho perché si lamentava, ma non si lamenta più. No? No, fa solo prima ha fatto dei versi durante la story, quindi di solito quando c'è la musica un po' canta lui. Eccolo. Io farei un applauso. Che emozione, grazie. Parlano con te, Nacho. Volevo fare un'altra domanda a proposito di una scena che parlavamo fuori onda di quanto si siano preoccupati a Sanremo di dare messaggi femministi eccetera eccetera, e poi sala stampa con le bambole di pezza, una vergogna, sì, la battuta di Carlo Conti e i jeans, mogliettina mia non comprarti quei jeans che sono geloso. Poi naturalmente dulcis in fundo la vittoria di Sal, si chiama quello, saremo io e te, Sal da Vinci, altra roba, sì. Chi è che pensa che sia romantica? No, vero, no. Saremo io e te a così. A così. Esatto, capito? No, ma infatti quel pugno lì è veramente spaventosissimo, capito? A così? Cioè, questo è uno. Sarà questo è uno che se lo molli ti uccide, cioè taglia a fette. Allora, no, non fare delle dichiarazioni così tanto visive, però dire così, non si può dire così, no, perché poi mi non sarei così tanto esplicita, però direi che potenzialmente uno che gli allora facciamo così, parla l'esperta. Grazie. No, in effetti è vero. Parla l'esperta. Ti potrei dire che uno che non gli tornano i conti potrebbe dirti delle parole poco così disgraziate, e potrebbe dirti non va bene. Continuo, vero? Continuo, no, certo. Niente, ma potrebbe comunque alzare la voce al prescindere dal fare cose violente, che comunque, come ci insegna finalmente qualcuno che ne sta parlando tanto, basta anche dire certe parole per raccontare quanto quello sia l'anticamera di una cosa molto peggiore. E quindi bisogna andarsene alla cussi. Esatto, ai primi segnali, esatto. Subito bisogna mandarli a fanculo. Eccolo. Anzi, quindi. Bisogna mandarli a fanculo. Oh, questa è una metà. Dove? A fanculo. Esatto, è un luogo specifico. Esatto. Bene. Fra l'altro, ahimè, tocca di fare anche della menzione. Ci tocca. Anche perché in realtà queste due grandi e giovani artiste sono qui per raccontare che mercoledì 4 marzo alle ore 18 inaugura una loro doppia personale che si intitola Broken Dance. Ok, aspetta che dice Broken Dance. Giusto. Perché si intitola Broken Dance? Dicelo tu che sei il nostro curatore. Ok. Hai visto che stronzo. Gli amori fanno giri larghi e poi ritornano. Esatto. Dicevi Stefano. Tu le inviti a fare una doppia personale e loro cosa fanno in cambio? Okay. Si intitola Broken Dance perché è una danza interrotta. Ah. Ma dai, dici di più. Si ride. No, visto che quando è stato qualche settimana fa, quando abbiamo avuto Angela in radio la prima volta, le avevo fatto il trappolone dicendole che non doveva parlare, che era solo qua per divertirsi, e poi le ho fatto il terzo grado in diretta. Vabbè, ma tu rispondi adesso a Zia Cinzia di cosa si tratta. Esatto, di cosa si tratta. Si fa? No, chiediamo a Joy che è la prima volta che interviene in radio. Giusto. E che aveva voglia di parlare, sta scalpitando. Non vedevamo l'ora. Sì. Abbiamo trovato un punto di incontro tra me e Angela per appunto fare la nostra prima doppia personale. E in realtà non è che abbiamo trovato molto, se non la passione per la musica e per l'arte. Sì, e queste sezioni che ritornano, si riaccumulano, riprendono forma, c'è una costante nei nostri lavori di questo tipo. Ok. Sì. Siete enigmatiche, però sto cercando di entrare nel mood. Ma perché sennò poi non venite a vederla. Dovete venire a vedere la mostra. Certo. E dove? 5C Labia, Facchini 5C. Okay. Questa inaugura, dopo ne parliamo ancora un po', naturalmente, inaugura mercoledì 4 marzo alle ore 18 appunto in, al 5 C-Lab di Serendipo. Ringraziamo naturalmente Etta Polico che ci ha permesso di fare questa mostra e di spostare il pianoforte. Lei non lo sa ancora, ma l'abbiamo spostato. Ci ha permesso e non lo sa. Esatto, non lo sa, ma ce l'ha permesso. E naturalmente vi aspettiamo mercoledì alle 18. Non sgarrate. Vicolo dei Facchini 5C in pieno centro a Bologna. Io invece vi racconterei che mercoledì 4, che però alle 21, tranquilli. Alle 21, infatti, però potete, alle 21. Potete venire prima da noi e poi da Roberta Giallo. Eh sì, perché come ogni 4 marzo l'eclettica nostra Roberta Giallo rinnova il suo appuntamento d'amore con il suo amico e mentore Lucio Dalla, pubblicando una rivisitazione di un suo brano. Quest'anno l'omaggio raddoppia, un nuovo singolo in uscita e una serata speciale al Camera Jazz e Music Club di Bologna. Il singolo Balla Balla Ballerino è disponibile dal 4 marzo, è una rivisitazione nuda ed essenziale del brano di Dalla, registrata in chitarra e voce. Roberta Giallo è accompagnata dal musicista Agostino Raimo, lo stesso con cui aveva eseguito il brano lo scorso 2 agosto su invito della Regione Emilia-Romagna per onorare la memoria delle vittime della strage. Una versione spogliata di tutto che punta dritta al cuore del testo di Dalla. L'evento Camera Show speciale Lucio Dalla, la sera stessa, mercoledì 4, la festa si sposta in piazza Santo Stefano al Camera Jazz Music Club, Vicolo Alemagna, dove torna il format live Camera Show, condotto da Roberta Giallo e Paolo Pollutri, stavolta interamente dedicato al genio bolognese, in una serata di musica con incursioni poetiche. Sul palco si alterneranno musicisti, cantautori e poeti in una varietà espressiva che rispecchia l'anima eclettica di Dalla, un racconto collettivo e corale per festeggiare il compleanno di Lucio nel cuore della sua città. Ospiti Luigi Grella, Beatrice Zerbini, Pietro Ciocca, Simone Bertin, Eva Laudace, Michela Vita, Samuela, Tizio Bononcini, Maria Pia Criesafulli. Orari, ingresso ore 21, inizio alle 21.30, Camera Jazz e Music Club in Vicolo Alemagna 1 a Bologna. Abbiamo anche Eva Laudace, non me ne ero accorto, ho fatto copia e incolla senza leggere, naturalmente, infatti scusami che ti ho fatto leggere così tanta roba. E mentre invece sabato 7 marzo alle 17.30 abbiamo l'inaugurazione di Meeting Point con le opere di Paola Binante, Elena Grossi, Emili Romano, a cura di Azzurra Immediato. Tre ricerche autonome si incontrano senza annullarsi, lo sguardo si stratifica e trasforma secondo prospettive che abbracciano esperienze, generazioni e percezioni diverse. Tutto questo all'Associazione Culturale Spazio La Vie in Vicolo Malgrado 3D a Bologna. E naturalmente domani su coxospaziale.blogspot.com troverete tutte le informazioni che vi servono per andare a vedere queste tre fantastiche. E aggiungi anche qualcos'altro? Aggiungiamo anche qualcos'altro? Non lo so, curiosa. Ci sono le foto di Nacho che vomita in diretta. Ma come? Naturalmente, poi c'è la lista delle canzoni che abbiamo suonato e che tutti i riferimenti e tutti i link. Esatto, e poi ci sono le foto di voi che no, le foto di noi che parliamo, conversiamo e io che chiedo, che chiedo cose, io sono quella che fa domande, così, esatto. Io ho l'angolo della domanda di Cinzia, come esatto. L'altra volta che ti ho fatto le domande. La donna delle domande. Certo, e vedo che Serendipo 5C Lab è aperta dal giovedì al sabato dalle 16 alle 20, voi ci siete sempre, cioè dal 4 al 27 che sono le date previste? Allora, noi ci saremo giovedì e venerdì dalle 16 alle 20. Ah, per cui i sabati me li cucco io? Oh, così c'è stato detto. Così c'è stato detto. Ah, sì? No, comunque. Okay. Divisione delle mansioni in diretta. Un paio d'ore me le faccio il sabato. Va bene. Tanto sicuramente preferiscono che ci sia io. Ah, sì, no, infatti. Aspetta, mic drop. Esatto, scusa. Questa che ci stava tutta. Sì, no, sono d'accordo, anch'io okay. Preferirei che ci fossi tu. Vi vedo così, a spintoni. Vi vedo a spintoni, non è male. 333-180-94-94, sì. Mi meraviglio che nessuna madre di nessuna di voi due ha ancora messaggiato qualcosa. Io voglio sapere se qualcuno ci sta ascoltando, chi ci sta ascoltando, cosa ha votato a Sanremo. Perché tu hai votato? Io ho votato tramite l'alzata di mano la sera al Palazzo Marescotti con Gruppo Dance, perché hanno dato la possibilità di fare una votazione tipo 9 voti. uno dei professori. E dunque hai votato J. Arts? Non lo mi ricordo. No, io ho detto in totale anonimato. Okay. Nel sondaggione, chi è che vince secondo voi? Io, J. Arts, l'unica pigna che l'ha scritto, perché poi sono apparsi tutti i voti, no, a rotazione, e c'era un J. Arts lì che camminava in mezzo ai vari Arisa, Levant, certo, e tutti gli altri. No, doveva vincere, sembrava che dovesse vincere questa, come si chiama lei? Quella... La dito nella piaga. No, non dito nella piaga. Delle bambole di pezza. No, quella... non lo so. Ma hai visto Sanremo? Sei sicuro? Ho visto Sanremo e sì, credo che sia arrivata nona alla fine. Quella col caschetto biondo. Ah, Serena Brancale. Che era pateticissima. Castana. Ah, era esatto. No, no, bionda, idea. Tinta castana. E siccome faceva cagare quel pezzo, ho detto vince lei sicuro. Invece, no. Invece ha vinto un altro che però siccome dormivo non avevo sentito. Perché invece, siccome quello non faceva cagare. Sì, no, ma voi avete giocato al Fanta Sanremo? No. No, neanche io quest'anno. Io sì, ho fatto pochi punti. Anzi, però saluto Amerigo che di solito mi invita al Fanta Sanremo di adiacenze, ma quest'anno Ho visto un sacco di fermento, cioè c'era un sacco di aspettativa, un sacco di roba, si è bombato tantissimo tutto e poi dopo è stato un Sanremo è imploso. Cockshow spaziale. Bellissimo. Non si sa mai che ci dimentichiamo che cosa stiamo ascoltando. Che ne dite del prossimo direttore artistico? Ma chi è? Fa l'altro? Stefano De Martino. Ma dai. Ecco, tu che allora, sei una che ha guardato edotta, Amici. Esatto. Che ha guardato Amici. Cavolo, allora, lui è, scusate, lui è il primo fidanzato di Emma Marrone. Ah, wow. Erano fidanzati nella casetta quando facevano Amici nello stesso periodo. Hai lui era ballerino, lei era cantante, lui la lasciò per Belen. Ti è? Sì. Ah, padre dei figli. Primo figlio di Santiago. Santiago, quanti gossip che sono. No, infatti. Quindi, il secondo di chi? Il secondo è di una. C'è fortuna che non insegni in accademia, sarebbe un disastro. Aspetta, il secondo di chi è? Sì, di no, una ragione, baby number. Non me lo ricordo. Ha un nome che c'ho qua, ma non c'ho qua. Okay. Non importa. E comunque, detto questo, lui è stato quindi fidanzato di Belen per molto tempo, è iniziato a diventare l'idolo delle donne, mm-hmm. Poi fa gli affari tuoi, pacchi e roba del genere, e fa una l'isola dei famosi 13 ha fatto. Sì. Ma quello è quando era già... E adesso proprio è il conduttore del... Cioè lui da sbarbo era proprio da Amici che faceva come tutti gli altri quella magliettina che si vinceva il serale, non serale. E adesso direttore artistico di Sanremo. E ha fatto anche il collegio, pare, nel 2023. Ah sì? Ah dai, così dice. Vabbè, ma sarà stato un momento sbagliato della momento sua vita. Sbagliato. È vero che lui fa speciale uomini e donne? Sicuro in quella rete lì. Detto questo, vi devo far sentire un altro pezzo. Ma faccelo sentire. Si chiamano Love Bombing e sabato scorso. Che interessante questo argomento. Rosina mi aveva mandato il pezzo prima di sabato scorso, uh-huh. Soltanto che era dopo Coxo Spaziale. Il Coxo Spaziale è di lunedì e lei me l'ha mandato tipo mercoledì dicendomi che al sabato avrebbero suonato al Covo. E io siccome ci provo ad andare indietro nel tempo, ma non ci riesco, per cui Love Bombing. Love Bombing è il gruppo interessante. Che sono sono stati inseriti da Pitchfork, rivista online statunitense, tra le band più influenti in ambito indie alternative, tra le migliori uscite del periodo. Sono stati scelti da Spotify come band di copertina per la playlist editoriale Rock Italia. Ah, però hai capito? Voglio sentirla. E adesso ci vogliamo ascoltiamo sentirla. Esquisito ci River, hai creato un nuovo, bisogno dal e un nuovo desiderio. Disco che si chiama Peace Peace Peace. Wow. Sì, no, è un gioco di parole un po' we like it. Cazzo. Don't you Mahmood. Stavolta è finita davvero. Ah, quindi hanno lanciato via Ultimo per Mahmood perché Ultimo è arrivato come secondo. Perché era preferito dalla, esatto, dai giornalisti. Esatto. Ultimo, amore mio. Ultimo, amore. Bello, amore, Ultimo. Bello, Ultimo. Bello, Ultimo. Bello, vabbè, adesso se ti chiami Ultimo non è che puoi arrivare primo. Che cazzo vuoi, scusa. Ecco, molto bene. Vabbè, oh. Ci sono delle risate tra... Sì, perché no, qualche tasto risata. No, ahimè non ce l'abbiamo il tasto risata. I finti applausi, le finte risate, mentre continuiamo a sorvolare sulla domanda: ma voi avete mai votato Sanremo? Io forse ho votato una volta X Factor perché mia figlia mi ha praticamente mi ha costretto. E per chi hai votato? Tony Pitoni nell'anno in cui è stato escluso. Che c'era Tony Pitoni tipo nel 2020? No, stiamo parlando di Covid. Tipo del 2006-2007. Ah, proprio lì. Sì. Ok, primissimi. Tipo forse l'anno in cui ha vinto Matteo. Chi è? Nigiotti. No, Nigiotti, no, Enrico non c'entra. Ah, Matteo. No, era l'anno in cui c'era Noemi. Ah. Che era l'anno in cui c'era Serena Abrami, che poi ho importunato online e l'ho fatta venire a Coxo Spaziale. È arrivata terza lei, era super fantastica. No, vabbè, voi non eravate neanche nati. Io non ho seguito così da bene. Qualche anno c'eravamo già. Sì, io non ne ho seguiti tantissimi, a parte quello di quest'anno. No, sì, che è un po'. Yumi aveva tipo 4 anni, per cui sarà stato il 2008, tipo. Ok. Sì. Wow. Sì. E io invece ancora peggio. No, perché tu, quello non è peggio in realtà. Io avevo votato al Grande Fratello. Grande. No, anno. Boh, penso i primissimi, tipo se non tipo forse il quarto che seguì perché avevo tipo Stream. Perché mi sono ricordata Stream e Telepiù, una roba antichissima. Ah, wow. Ti ricordi tu, vero? Telepiù e Telepiù me lo ricordo. Stream non so. Stream cosa viene sia. Subito dopo Telepiù, era tipo lo Sky di adesso, però era Stream, si chiamava. Ah, dai, ok. Sì. Bene. Ma invece, cioè, visto che le abbiamo chiamate qua, perché mercoledì inaugurano una doppia personale, cioè, vogliamo magari farci dire almeno che cosa Stefano presenteranno. Mi bacchetta. No? Dicevate. Cioè, non lo so, che cosa succede in questa mostra? È una doppia personale, che significa che sono due personali una di fianco all'altra, giusto? Sì. Ok. Ok, nella prima stanza ci sono due stanze. Nella prima ci sono i miei lavori. Mm-hmm. E praticamente ho fatto, cioè, un'installazione audiovisiva che presenta queste ramificazioni con il filo di ferro che catturano dei pezzi di carta bruciata. Ed è un po' una riflessione sul concetto di permanenza e sulla fragilità del concetto di permanenza, che poi trova, cioè risuona anche grazie sia a un sonoro sia ad una foto. Il che sonoro è Sal Da Vinci, naturalmente. Esatto. Il sonoro è Sal Da Vinci. Cioè il loop. Saremo io e te a Cussì per 7 ore continuamente. Esatto. E niente. E credo che è quello che è davvero... potrebbe trovare un punto di incontro tra il mio e il lavoro di Joy, sia il tempo come agente di trasformazione. Nel mio caso si parla appunto di queste ramificazioni che parlano un po', no, del come se fosse, no, una linea temporale che cattura dei pezzi di vita che un po' alla volta svaniscono. Mm-hmm. E hanno una lettura abbastanza negativa, mentre nel secondo caso, secondo me, c'è una visione positiva di quello che accade nella vita, perché appunto nella seconda stanza... Sì, allora, nella seconda stanza prendo questa palla. Allora, io ho fatto un'installazione audio in cui ho manipolato un giradischi mettendo una doppia puntina e facendo sì che il suono si trasformasse volta per volta. Ogni volta che viene messo il vinile non si avrà mai l'ascolto della volta precedente, proprio perché le puntine saltano su una linea e l'altra, a volte suonano insieme, a volte ne suona una, quindi a volte si ascolta la canzone per quello che è, a volte invece viene totalmente trasformata e quindi la matrice perde totalmente il valore, la valenza, e diventa un po'... Parla di matrice perché... Come mai? Perché è una studentessa della di scuola grafica di grafica d'arte. Il nostro curatore salutava Panta 80. Esatto. Nacho ha dato il benvenuto a Panta 80. Sapere, come mai acchiappiamo il giradischi, il vinile, questa cosa qua, questo oggetto? Come mai scegli di chiamarlo come protagonista? Perché il giradischi e i vinili sono un po' sacri, cioè sono quelle cose un po' intoccabili, con il vinile totalmente pulito, invece i miei vinili sono graffiati, sporchi, le puntine saltano in continuazione. Mi piaceva l'idea, no, che cose che abbiano magari una carica anche storica, emotiva così grande, venisse totalmente persa, no? Perdesse quel valore, diventasse divertente, qualcosa con cui poter giocare, poter manipolare. Perché prima giocavamo sul fatto che voi in quel periodo, in quegli anni, eravate piccine o non eravate ancora nate, eccetera. Il vinile non fa parte poi della vostra, forse del vostro ritmo? No, però si è ritrovato tantissimo negli ultimi anni, un po' da quei puristi, certo. No, che, cioè, avere il vinile, magari il tuo set fatto a modo, tutto ripulito, spendere milioni per avere un suono fantastico. Che poi in realtà il suono del milioni vinile di lire, è esattamente come dici tu. Beh sì, certo. Come... stiamo parlando di vinili, per cui siamo assolutamente tornati alle lire. Lire per forza, perché dopo il 2000 comunque il vinile aveva questa caratteristica. L'audio aveva proprio questa caratteristica del vinile, che c'era questo fruscio, questo era confortante. Sì, che anzi è un po' gracchiante. Sì, quella, sì. Non è, cioè, quella pulizia, anzi no. Fa parte del nostro mondo questa pulizia. Certo, la perfezione. Esatto. Certo, anche lui crede che noto con piacere che Alessandro Pantani sta molto simpatico al mio cane. Nacho, stai buono, vieni qua. Vabbè, qua comunque dobbiamo finire la puntata. Ma dai, perché sono, 54. 56 sono. 54, 55. Ah, io qua dico 50, anch'io 56, dalla mia parte, dalla mia parte. C'è scritto 56. Okay. Non lo so, tutto questo è. Vabbè. Allora, la settimana prossima le reinvitiamo, così ci raccontano. Sicuramente verranno senza dubbio. E poi richiamiamo chi quest'oggi era malato. Tutti quelli che erano malati oggi, lunedì scorso e lunedì. E lunedì anche prima, perché si continuano ad ammalarsi tutti. Non ho capito io e te che cosa abbiamo preso per non ammalarsi. Io salutiamo anche Lisa e anche Chiara perché anche loro, Giulia, tutte malate sono. Vabbè, comunque al solito siamo stati bravissimi e, anzi, salutiamo anche Ricky che è malato, che però anche lui forse arriverà lunedì prossimo. Attenzione che forse ti facciamo parlare se non arriva nessun altro, perché sono tutti malati. E poi naturalmente, come al solito, ringraziamo Joy Coca e Angela Tragni, che incontreremo mercoledì alle 18 al 5C Lab di Serendippo, in vicolo dei Faccicchini. E naturalmente ci salutiamo con le parole del nostro direttore, che al solito ci complimenta così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. E io ero Cinzia Corda. Prenoto il dermatologo e poi mi viene